13 gennaio, seconda parte. Allora, lo status delle immagini. Ve la leggo e poi vi leggo le prime pagine e poi mano a mano commentiamo, vediamo, eccetera. Nell'ipotesi che si cercasse di spiegare a un uomo di Lascaux e a uno della Firenze Medicea, sapete cos'è la Firenze Medicea? Sì, la Firenze dei Medici, che molte tra le immagini odierne sono immagini che si muovono, potrebbero facilmente insorgere degli equivoci. L'uomo di Lascaux penserebbe che queste immagini migrino da caverna a caverna. E il fiorentino sosterrebbe che anche le immagini del suo tempo si muovevano da quando si cominciò a dipingere su tele anziché sui muri delle stanze. Bisognerebbe perciò aggiungere che le cornici delle immagini attuali sono rimaste quasi altrettanto immobili di quelle di un tempo e che, in questo senso letterale, il loro status non è mutato considerevolmente. Continuano a essere dei Gegenstände, delle cose che ci stanno davanti. Allora, questo bisogna che lo spiego perché è in tedesco. Allora, in tedesco, forse ve l'ho già detto, ma se l'ho già detto lo ripeto, in tedesco la parola oggetto, allora, oggetto in italiano, in inglese e in francese ha più o meno la stessa origine. Che vuol dire? Da cosa deriva oggetto? Lo sapete? Getto. Gettare. Ob è un prefisso latino che vuol dire davanti. Quindi un oggetto è qualcosa che io getto davanti. Il soggetto è quello che sta sotto. L'oggetto è quello che io getto davanti. Quindi quando noi diciamo oggetto, in realtà nessuno di noi lo sa, però insomma pochi di noi lo sanno, ma l'etimologia conta anche se uno non la sa più. Però il modo in cui si è formata quella parola influenza più o meno il posto che ha quella parola nella lingua. Allora, nelle lingue italiana, francese, spagnola e anche inglese, perché deriva dal francese la parola, infatti si scrive uguale, solo che si legge diversamente, ma è objet in francese e object in inglese, ma si scrive uguale. Oggetto è qualcosa che io, è qualche cosa che sta di fronte a me, ma che è gettato. Un oggetto, cioè, detto in altri termini, la parola oggetto non è così pericolosa come per uno. Tu ti sei? Tu ne via. Come diavolo si chiama oggetto in arabo o in altra lingua? E che cosa vuol dire? Che origine ha? Lo sai che origine ha? La parola Haja. Sì, da che cosa viene? Da che cosa deriva? Da quale altra parola è simile? E oggetto, la parola oggetto deriva da questa cosa. Quindi vedete che nelle lingue... Di punto scrittura. Di punto scrittura si deriva di quella... Sì, quella parte, sì. Però nel senso proprio è un'altra cosa, quindi è solo forse un modo di scriverlo che è simile. Ah, è più simile a bisogno. Va bene, adesso qualsiasi lingua andassimo si sarebbe, adesso noi parliamo delle lingue indo-europee, però c'è una lingua, il tedesco, in cui la parola oggetto vuol dire la stessa cosa che per noi, però ha un altro... La parola oggetto in tedesco è Gegenstand. Che è formata da due blocchi diversi, uno è Gegen e l'altro è Stand. Allora Stand è facile da capire perché è simile al verbo inglese. Stand è il passato, in tedesco è il presente, ma è come lo stay in inglese. Stay in inglese vuol dire stare in piedi. Io non sto... I'm sitting. Ma I stay, quando I stay, io sto in piedi. E per un tedesco, ich stand vuol dire io sto in piedi. Quindi stand è qualcosa che sta in piedi, che si erge. E gegen vuol dire addirittura contro. È le gegen in inglese. Il contro italiano, il contro francese. Quindi un oggetto per un tedesco è qualcosa che mi si erge di fronte, non solo di fronte, contro, diverso dire oggetto. Oggetto è qualcosa che io ho preso e l'ho gettato davanti e sta lì, l'ho messo lì, non mi sta contro l'oggetto, in italiano, in inglese o in francese, mentre per un tedesco l'oggetto, come dire, c'è una certa forza, c'è una certa resistenza delle cose, il mondo mi fa resistenza, non posso fare quello che mi pare a me il mondo, è un Gegenstand, quindi il plurale di Gegenstand è Gegenstände, i tedeschi fanno il plurale spesso aggiungendo una E, ma a volte modificando la vocale tematica, quindi da A diventa E, una con le si pronunciare una E, toccare una E, quel Gegenstände, quindi gli oggetti sono da Gegenstand di Gegenstände, gli oggetti, quindi per questo lui dice, continuano a essere, dice guardate che le immagini, dice, le cornici sono rimaste immobili come quelle di un tempo, quindi in questo senso il loro status non è mutato considerevolmente, continuano a essere Gegenstände, cioè cose che stanno davanti. Ciò che ha cominciato a muoversi è stata la scena visibile entro la cornice, non è più una scena immobile, ma è un quadro in movimento. Da ciò l'uomo di Lascaux trarrebbe la conclusione che nelle nostre immagini a muoversi sono le ombre, come accadeva nelle pareti delle caverne di fronte al suo focolare. Accende il fuoco, le ombre si muovono sui muri della caverna. Gli si dovrebbe raccontare che le nostre ombre sono colorate e non si muovono solo lungo le superfici delle pareti, ma sembrano anche erompere dall'interno della roccia per poi rientrarvi. Il fiorentino allora potrebbe pensare che forse che immagini del genere propriamente siano finestre. A ciò bisognerebbe rispondere che tali immagini, in tali immagini non solo come alla finestra si muove la veduta che si osserva, ma si muove anche l'occhio che guarda fuori. Un occhio che può accostarsi alla veduta con uno zoom e assumere anche una maggiore distanza rispetto a essa con un teleobiettivo. Per accrescere ulteriormente la confusione causata in questo modo, si potrebbe aggiungere che queste immagini, oltre a muoversi, emettono anche dei suoni. Dapprima, certamente entrambi, l'uomo di Lascaux e il fiorentino, comprenderebbero la cosa in questi termini. Durante il trasporto da caverna a caverna o da chiesa a chiesa, quelle immagini producono dei rumori. Successivamente ipotizzerebbero, penserebbero che le ombre che si muovono sussurrino i segreti del regno delle ombre. Si dovrebbe spiegare loro che le figure che si muovono nell'immagine parlano ad alta voce, ridono e cantano, che il tuono dell'immagine fa sentire il suo scoppio, le gocce di pioggia al loro picchiettio e anzitutto che, inaspettatamente, l'intera processione delle immagini è immersa in altri suoni, per esempio musicali. Di fronte a tali informazioni, per esempio, l'uomo di Lascaux decisamente e forse il fiorentino con qualche esitazione affermerebbero che tali immagini sono realtà alternative, effettualità diverse. Penserebbero che si tratta di mondi diversi. E dice, cazzo, non è possibile che fanno queste robe qua, fanno e ridono. Non si potrebbe concordare con una simile opinione. Si dovrebbe far presente che quelle immagini certo sono visibili e udibili, ma non si possono odorare né gustare. Non si sente l'odore, non c'è il gusto. E prima di tutto è impossibile urtare le figure presenti nelle immagini, come si possono urtare le persone nel mondo. Entrambi non accetterebbero questa precisazione come un controargomento. L'uomo di Lascaux affermerebbe che oltre a quelle della vita d'esta esistono altre realtà, per esempio il mondo dei sogni e il regno dei morti, e che le immagini di cui parliamo sicuramente devono essere annoverate tra quelle realtà. Quindi l'uomo di Lascaux penserebbe che la televisione è qualcosa di simile al mondo dei sogni o al mondo dei morti. E il fiorentino direbbe che nel sentire la nostra descrizione ha acquistato una tale fiducia nella nostra tecnica di produzione delle immagini da convincersi che in futuro saremo in grado di realizzare immagini che coinvolgeranno anche il tatto, l'odorato e il gusto. Si sarebbe costretti a dare ragione ad entrambi. E per complicare ulteriormente le cose, si dovrebbe aggiungere che noi stiamo proprio cominciando a vedere e a udire in tali immagini realtà sinora mai viste e mai udite, per esempio algoritmi.

di quelle che ci stanno sommergendo, o produrre delle immagini quiete. Immagini quiete. Ci fosse anche un cancellino, forse. Allora. Questo la scrivo perché è un concetto importante per Flusser. Immagini quiete, in tedesco è Stille Bilder. Bilder è immagini, Bilder è il plurale di immagine, Stille è come in inglese, still, fermo, quieto. Stille Bilder, il francese sarebbe qui, immobile. In esempio qua. Com'è il francese? Immagini quiete, stille bilda. Quindi dobbiamo o creare immagini sonore molto più nuove di quelle che si stanno sommergendo, o produrre delle immagini quiete che supplino il diluvio delle immagini. Questa affermazione non può semplicemente valere così, deve trovare una base di appoggio. In primo luogo bisogna mostrare in modo plausibile perché non sia possibile tornare alle vecchie immagini. Questo forse non mi convince del tutto pure a voi, perché anche voi pensate che sia possibile tornare alle vecchie immagini, eh? Uno va a vedere una mostra d'arte e vede dei quadri, eh? Sono le vecchie immagini, come quelle di prima. Che cos'è che è cambiato nel frattempo però? Il fatto che quelle, per un uomo del Rinascimento, quelle sono le sole immagini che lui conosce. Noi andiamo a vedere i vecchi quadri nelle mostre d'arte, ma quei quadri, anche fossero dipinti nel modo più tradizionale possibile, non sono più le uniche immagini che noi fruniamo, sono sorelle e ci sembrano inevitabilmente sorelle minori e sorelle più povere, non ci sono Cristi. Potremmo ammirare, siamo tutti contenti, anche i quadri di Picasso, di Magritte, di Max Ernst e di quelli più, virgolette, recenti del secolo scorso, mica quelli del Rinascimento. Certo, possiamo ammirare la loro bravura, ma da un punto di vista della potenza, non Guernica non vale mezzo fotogramma televisivo della adesso cos'è che si vedrà nella televisione di Mosca, si vedrà per dire la non l'invasione, l'acqua in Australia, lì, cioè, l'inondazione. Allora, a mezza immagine dell'alluvione di qualsiasi cosa, insomma, no? Cioè, quindi è vero, sì, ci sono le vecchie immagini, ma non hanno più, noi non possiamo tornare alle vecchie immagini e che queste immagini abbiano per noi lo stesso valore, lo stesso senso che avevano per gli uomini del Rinascimento. Non possiamo, letteralmente, perché la nostra esperienza è fatta di tutte le altre immagini nuove che ci sono di fronte. Poi, allora, bisogna prima mostrare perché non sia possibile tornare alle vecchie immagini. Poi, come possiamo mettere fuori gioco, tecnicamente, esteticamente, esistenzialmente, le immagini che minacciano di affogarci? Come possiamo fare? Come possiamo produrre delle immagini quiete? E infine, come e in assoluto se possiamo produrre immagini quiete come difesa e salvezza dalle immagini mobili sonore? Le buone vecchie immagini venivano create tutte le volte che uno si distanziava da un oggetto per considerarlo e per rendere accessibile ad altri ciò che lui aveva visto. Questo passo indietro dall'oggettivo, dal Gegenstand al soggettivo, a me che guardo, e la svolta susseguente nell'intersoggettivo, io dipingo qualcosa per cui faccio vedere anche a voi questo oggetto che mi stava di fronte a me, o lo fotografo è uguale, e poi ve lo faccio vedere anche se voi siete lontani. Questo passo indietro dall'oggettivo al soggettivo e la svolta susseguente nell'intersoggettivo costituiscono un gesto di straordinaria complessità ed entrambi gli esempi storici già ricordati possono illustrarlo. L'uomo di Lascaux guardava il suo oggetto, per esempio un cavallo, da un punto di vista soggettivo. Si trattava di una veduta fuggevole e privata. L'ha visto per un istante, però il cavallo si muove, cioè, l'ha visto un attimo. E c'ero solo io, c'era solo lui, quindi è stato privato. E questa doveva essere fissata e resa pubblica per renderne partecipi gli altri. Fissata e resa pubblica. Disegnata sulla parete di una caverna e la parete della caverna doveva essere aperta a tutti quelli che si volevano entrare. Per fare questo l'uomo di Lascaux cifrava la sua veduta in simboli. Cifrava la sua veduta in simboli. E con spatola e colori trasponeva questi simboli su una parete di lotta. Chi conosceva il codice e passava di fronte alla parete poteva decifrare l'intenzione e ricevere il messaggio: ah, questo è un cavallo. Da tutto questo il gesto del fiorentino non si distingueva in modo essenziale se non per un aspetto, cioè il fiorentino lo chiamava così, se non per un aspetto. L'oggetto a cui il fiorentino si riferiva non era altrettanto oggettivo, ma era già immerso in una precedente soggettività, per esempio una scena biblica. La scena biblica nessuno di noi l'ha vista davvero, è raccontata in un libro nella Bibbia. Il popolo di Sodoma che si vuole interpretare gli angeli, non ce ne pochi dipinti di questo tipo, se fosse stato, io l'ho letto sulle pagine di un libro, trasformo questa lettura che faccio, mi formo l'immagine mentale di come doveva essere Lot, che comunque di quasi su Lot e sugli angeli, in cui si capisce anche volendo che il popolo di Sodoma aveva delle cattive intenzioni verso gli angeli. Quindi, come io me lo immagino, e poi faccio la stessa cosa che faceva l'uomo di Lascaux. Notate che io qua non sono stato d'accordo, perché qua Flusser presuppone che l'uomo di Lascaux non era in grado di inventarsi nulla, e questo non è detto, perché noi non siamo sicurissimi che le scene, tutte le scene delle caverne preistoriche siano esattamente la riproduzione di cose reali. Forse da allora c'era una prima capacità progettuale inventiva, però diciamo, diamo per scontato, non è così importante. Ciò significa che il codice in cui il fiorentino cifrava la sua veduta consisteva di simboli già istituiti, in cui egli inseriva i propri. C'era un simbolismo della Bibbia e lui ci inseriva i suoi, cioè il modo in cui lui visualizzava questa scena narrata nella Bibbia. Detto in modo diverso, l'immagine di Lascaux è preistorica, però questo gli serve a lui per capire, viene prima della storia e può essere sempre di nuovo decifrata da ogni destinatario in base al suo proprio metodo. Effettivamente questo è vero, qualsiasi persona di qualunque cultura guarda una delle immagini di Lascaux e la può capire a modo suo, ma la può, diciamo, capire. L'immagine del fiorentino è storica e per decifrarla è necessario conoscere la storia. Se io non so che cosa racconta l'episodio della Bibbia sulla città di Sodoma, su Lot, sulle sue figlie e sugli angeli, non capisco che cosa vuol dire quel quadro. Capisco l'immagine, ma non riesco a... quindi ho bisogno, essendo quella un'immagine storica, cioè che sta dentro un flusso di avvenimenti, di codici e di cifrature già dato che l'artista ripete, devo conoscere questo, e in genere lo conosco perché fa parte della mia formazione culturale anche di basso livello, insomma. Le immagini non possono più essere prodotte in questo modo. Le nuove immagini, che lui infatti chiamerà post-storiche, sono quelle preistoriche, quelle della scuola, le immagini storiche, quasi tutte quelle di cui noi disponiamo, da quando c'è la scrittura o poco prima, e poi le nuove immagini che lui qua chiamerebbe post-storiche. Le immagini non possono più essere prodotte in questo modo. La scienza moderna, a partire da Cartesio, si è posta a distanza dall'oggettivo, e dall'invenzione della fotografia ha approntato degli apparati finalizzati a fissare e a codificare ciò che si vede. Fissare e codificare ciò che si vede. Qui la parola chiave è apparato. la scienza moderna, dice Plusser, ha creato degli insiemi di tecniche che poi si materializzano in macchine, per esempio le macchine fotografiche e poi le cineprese, che sono degli apparati, quindi l'apparato non è la singola macchina, è l'insieme di tutte quelle macchine e i principi tecnici e scientifici sulle quali funzionano. Questi apparati, ci dice Plusser, sono destinati a fissare e codificare ciò che noi vediamo. Se chiamiamo immaginazione il gesto complesso del produrre immagini descritto in precedenza, l'immaginazione è la facoltà che porta l'uomo di Lascaux e l'uomo del Rinascimento a dipingere bisonti e cavalli sulla caverna o a dipingere scene bibliche sui quadri. È l'immaginazione. Si può dire allora che, anzi si deve dire che la scienza e la tecnica moderna, al fine di perfezionare l'immaginazione, hanno spostato l'immaginazione umana negli apparati. Gli apparati sono oggi la sede, l'immaginazione umana adesso sta lì, non sta più nella nostra testa, sta in questi apparati, in questo enorme insieme di macchine che è capace di fissare automaticamente le immagini, certo le immagini che noi scegliamo di, però non siamo più noi che le creiamo, non siamo più noi che immaginiamo il modo di dipingere un bisonte, né siamo noi che immaginiamo il modo di trasporre in un quadro la scena biblica di Sodoma e Gomorra o qualunque altra descrizione. È la macchina che lo fa per noi. C'è un apparato. Questo è meglio ancora, ci arriverà dopo, non possiamo sapere, mentre la foto ha un'indica, c'è una bella differenza, è quello che si cerca di spiegare qua, nella pittura diciamo tradizionale, c'è stata una persona lì davanti che ha esercitato una sua immaginazione personale, cioè o ha visto qualcosa o ha letto qualcosa su un libro e si è immaginato nella sua mente o come era, si è ricordato come era a cavallo o ha immaginato come essere e l'ha messa a quadro. Con una macchina fotografica o con una cinepresa non hai più bisogno di immaginare questa cosa, nel senso che o vai e riprendi qualcosa che c'è davvero, o se vuoi fare la scena biblica, fai come fa Stephen Neal, come fa per fare un film, costruisci un set cinematografico, metti le case, le chiavi Gomorra, prendi un attore che fa Lot, due attori che fanno gli angeli, tre attrici che fanno le figlie, un po' di comparse che fa il popolo assatanato, li metti lì e con una macchina da presa riprendi quello che l'ho fatto. È una cosa diversissima, l'immaginazione, non che non c'è più, però sta in un altro... Magari prendi in un altro senso. Certo, però non è più la stessa. Finché tu usi delle tecniche o degli strumenti analogici, chimici o elettronici tradizionali, però tu sai che devi sempre avere, se tu vedi un'immagine analogica tradizionale, tu sei sicuro che qualcuno è stato davanti. Tu vedi la foto di tuo nonno, dici ah, mio nonno stava lì, e tu sei sicuro, che no, poi non sei sicuro che tuo nonno avesse davvero quella faccia, perché la macchina fotografica è in grado di vedere immagini che il tuo occhio non è in grado di vedere. Perché? Perché il tuo occhio, il tuo come il mio, vede solo ciò che si ferma per almeno un decimo di secondo. E quindi vuol dire che io la gran parte dei movimenti reali del tuo viso non li vedo. Vedo solo quelli che superano un decimo di secondo. La macchina fotografica li vede. Perché la macchina fotografica vede tutto ciò che sta fino a un cinquantesimo, un centocinquesimo, un seicentesimo, un millecinquecentesimo di secondo. E quindi è in grado di vedere, ne parleremo poi, è quello che Benjamin chiamò l'inconscio ottico. Le macchine sono in grado di vedere cose, per questo noi ci fa sempre così, non siamo sicuri di essere noi nelle foto spesso, no? Come allo specchio, ma come, non è possibile. Certo, sono facce, o aspetti del mondo invisibili all'occhio, visibili solo alla macchina. La macchina te li rende, Però tu eri sicuro, con Photoshop, col digitale, non puoi neanche essere sicuro di questo. Perché se hai dei programmi sufficientemente buoni, tu puoi costruire delle bellissime immagini che sembrano vere, ma in realtà sono totalmente sprecate, Quindi questo cambia ancora, adesso lui non è ancora arrivato a questa cosa. Ti sei aiutato altre persone. È vero quello che lui dice qua. La scienza e la tecnica moderna hanno spostato l'immaginazione umana negli apparati. Non che non si immagina più niente, ma nel senso che quello che tu devi fare oggi è molto diverso da quello che tu devi fare. Oggi devi solo preoccuparti di costruire le condizioni per cui queste macchine, questi apparati siano messi in grado di fare il loro lavoro. Però se hai fatto questo, tu a te non ti riguarda più. Il pittore doveva scegliere, doveva fare una serie di scelte continue nel mese, due mesi, tre mesi, che stava lì per scegliere il quadro. Doveva decidere dove mettere il colore, doveva come tracciare quella linea, se farlo più. Cioè, era quello. E questo insieme di decisioni, la sua immaginazione, poi alla fine creava le carte del quadro. Tutto questo procedimento nelle immagini degli apparati è automatizzato, è stato trasferito da noi alle macchine. E a quel punto con Photoshop tu puoi anche costruire immagini in progetti inesistenti. Totalmente, questo l'aveva già detto prima, ma adesso lui non ci torna. Da allora nessun uomo è più in grado di entrare in concorrenza con gli apparati. E la questione è anche più intricata. Ogni qualvolta osserviamo un'immagine alla Lascaux, come a Firenze, noi assumiamo il punto di vista degli apparati, perché si impregnano la nostra intera immagine del mondo. Di conseguenza noi riceviamo, ovvero decifriamo le vecchie immagini nel contesto dell'immagine moderna del mondo, apparaticamente. Ecco detto in maniera diversa quello che io vi ho detto prima. Ecco perché quando noi guardiamo una mostra d'arte e guardiamo i quadri di Picasso e di Juan Gris e di Braque e di Max Ernst e non li guardiamo più come li avrebbe guardati un uomo del Rinascimento. Perché anche queste immagini dipinte in modo tradizionale, noi le guardiamo non più con i nostri occhi, ma le guardiamo con gli occhi di persone abituate a guardare e a produrre immagini nuove, immagini fatte dagli apparati. Un altro modo, un'altra parola che userà Plus Rinascimento è immagini tecniche. Le immagini tecniche, technische Bilder in tedesco, le immagini tecniche, le immagini tecniche sono immagini di tipo nuovo, non hanno la stessa creazione, sono immagini prodotte da questi apparati i quali hanno concentrato dentro di sé gran parte della immaginazione umana. Poiché ci è preclusa la fuga dal diluvio di immagini, tornando semplicemente alle vecchie immagini, non si può tornare alle vecchie immagini, perché l'apparato ha condizionato ormai il nostro modo di vedere. Possiamo tentare la fuga in avanti verso le nuove. La spaventosità di questo diluvio è radicata in tre momenti. Queste immagini vengono prodotte in un luogo inaccessibile ai loro destinatari. Vengono prodotte a Cologno Monzese, negli studi televisivi o in posti che noi, in cui noi non possiamo andare. Se anche andiamo non sappiamo neanche bene dove andare, perché non c'è in realtà un vero luogo in cui vengono prodotte, perché consistono è un luogo virtuale, un luogo diciamo fittizio, perché sono l'assemblaggio di una serie di gesti e di cose fatti in vari, il telegiornale è il risultato della telecamera con l'operatore che è stato in quel posto, poi del trattamento che ha subito l'immagine attraverso uno o più filtri prima di andare in broadcast, perché c'è la regia, quindi c'è il taglio, decidere quanto ti tiene quell'immagine lì, 2 secondi, 3 secondi, 15, cosa gli metti prima o cosa gli metti dopo, se gli dai degli effetti, se ha, quindi in quale posto, dove è stata prodotta questa immagine, non potete neanche dire che c'è un posto preciso in cui è stata prodotta, è stata prodotta in una pluralità di posti, è un luogo virtuale quello in cui è stata prodotta, quindi primo, vengono prodotte in luogo inaccessibile ai loro destinatari, secondo, esse omologano ciò che vedono tutti i destinatari e così facendo li rendono ciechi gli uni nei confronti degli altri. È molto diverso se noi guardiamo la scena di un tentativo di rapina per strada, se la guardiamo dal vivo o se la guardiamo in TV. In TV la vedono un gruppo di persone, ma ognuno la vede separato dagli altri, non può fare un cazzo. Dice, ah, guarda lì, guarda, povera chiesa. Se voi siete lì, mentre che il mascalzone vuole cercare di rapinare la vecchietta, io e lui possiamo dire, facciamo qualcosa, chiama la polizia, fai questo. Abbiamo una relazione, non siamo ciechi, perché siamo nella vita reale, ma con la televisione siamo invece isolati, separati gli uni dagli altri. Se qui, seconda questione lui dice la spaventosità, perché sono spaventevoli queste immagini, primo perché vengono prodotte in un luogo inaccessibile a noi destinatari, secondo perché omologano, rendono uguale tutto ciò che vedono i destinatari, ma rendono i singoli destinatari ciechi gli uni contro gli altri, infine esse appaiono come più reali di tutte le altre informazioni che riceviamo attraverso altri media, inclusi i nostri centri scienziati, e voi anche questo lo sapete benissimo. Io negli anni 80 abitavo in Milano e tutti i giorni andavo a comprare pane, le signore, fatti i corsi, eccetera, e andavo avanti, ho visto 2 o 3 anni, buongiorno, buonasera, veramente esistenza, lo dico, guardavano la mia casa. Poi a un certo punto, in quel periodo, per 2 o 3 anni, ho cominciato a fare televisione. Ho fatto un programma televisivo che andava in onda a tarda notte, di sera, eccetera, eccetera, un programma culturale, in cui però compariva la mia faccia e io che parlavo dicevo delle cose. Dopo pochissimo tempo, dopo poche settimane, che c'era questa cosa, a luna di notte, pensate che la panettiera, una signora normalissima che mai più aveva pensato di notte dormiva, faceva che cazzo ne so, mi fa, cioè, ma lei è in televisione, cioè, il mio rapporto è cambiato, totalmente, io, a quel punto io sono diventato una persona reale per loro, che prima non ero, e uno che andava prima si era dimenticato, cioè, io ero diventato reale perché ero apparso in piccoli di televisione, chi non appare in televisione non è reale. È un fantasma, è una sì, lo vedo, è lì, cammina per la strada, non ti ho visto in televisione, no, sei un attore, non importa essere bravo. Adesso, all'epoca non c'erano vaccate terribili, ancora più terribili come il Grande Fratello, queste robe qua, tutti questi, cioè, da quando si è allargata loro, cioè, allora tutti, certo, c'è una selezione, un so di gente può andare, non importa, no, per una certa fase ancora. Uno compariva in televisione se era rilevante da qualche punto di vista, cioè se sapeva delle cose un po' meglio degli altri, se era un uomo politico, se era un artista, o se era un intellettuale, se era un criminale che aveva ammazzato. Adesso la nuova leva dei nuovi proprietari televisivi è invece il nulla, cioè sono persone che non, anzi, più sono connotati peggio è. O meglio, devono avere quelle minuscole connotazioni, molto, molto poco importanti, che poi il programma, che poi per esempio Maria De Filippi, amplifica, o gli altri programmi di questo tipo, diciamo, i programmi costruiti sulle false, poi sono tutte false, sapete, no? Tutte queste liti che si fanno, le sartronisti, roba del genere, sono quasi tutte, ma non perché vengono pensate prima, perché le condizioni del programma sono in modo che, e uno in quel programma si comporta in quel modo, ma è finita l'epoca in cui, come dire, era rilevante quello che avevi fatto nella vita quotidiana per andare in TV. Ormai non è più neanche quello. C'è un meccanismo abbastanza casuale che fa sì che sempre più persone insignificanti non è un'offesa, ma gente che non ha alcuna abilità specifica, gente che sono devono essere i più ordinari, i più banali del mondo, anzi più sono ordinari e più sono banali, più funzionano per poter andare in TV. Quindi, però è vero, quindi queste immagini appaiono a noi che le guardiamo come le più reali di tutte le altre immagini, ivi comprese quelle che vediamo con i nostri sensi, che dovrebbero essere più. Il primo momento prodotto in luoghi inaccessibili a noi destinatari indica che siamo di fronte alle immagini in modo irresponsabile, incapaci di qualunque responsabilità. Se non sappiamo dove sono prodotte e non possiamo andare dove sono prodotte, noi siamo irresponsabili, non abbiamo alcuna responsabilità per queste immagini. Il secondo, tutti guardiamo la stessa immagine ma non ci guardiamo gli uni con gli altri, significa che siamo sul punto di istupidirci, diventare stupidi, massificarci e perdere ogni contatto umano. E il terzo, queste immagini che appaiono più reali di quelle di tutte le altre immagini, il terzo, che noi dobbiamo alle immagini la maggior parte delle nostre esperienze vissute, delle nostre conoscenze, dei nostri giudizi e delle nostre decisioni, e che quindi siamo esistenzialmente dipendenti dalle immagini. Se non ci fossero queste immagini, noi non sapremmo cosa fare. Considerando la cosa più da vicino, risulta che tutti e tre i momenti spaventosi non risiedono nelle immagini in quanto tali, bensì nella modalità con cui si stabilisce il collegamento tra le immagini e i loro destinatari. Lo spaventoso risiede nella struttura della comunicazione, o per dirlo in termini più semplici, nel cablaggio materiale e o immateriale, nel sistema di cavi, nel sistema di collegamenti materiali o immateriali che legano i luoghi di produzione e circolazione di queste immagini ai luoghi di ricezione. È il sistema del cablaggio che è, non sono le immagini in quanto tali. Le immagini in quanto tali sono diciamo banali, sono, e non hanno tutti questi pericoli che esistono, non hanno tutti questi effetti spaventevoli che hanno invece. Ce l'hanno perché sono inserite dentro questo sistema, che è quello degli apparati, come dice lui, come dice. Se si potessero collegare diversamente i cavi, allora si toglierebbe di mezzo lo spaventevole ed emergerebbe che così cambierebbero anche le immagini. Semplificando, la modalità di collegamento oggi prevalente può essere descritta in questi termini. Le immagini vengono prodotte da un emittente e da lì vengono inviate sotto forma di fasci ai destinatari per mezzo di cavi che trasmettono monodirezionalmente in una sola direzione verso i destinatari. Ne consegue che questi ultimi sono irresponsabili perché i cavi non veicolano le loro risposte, qualunque esse siano. Io guardo la televisione, mi posso incazzare, chiamare la mia mamma e dire mamma vedi che schifo c'è in TV, oppure chiamare il mio vicino e dire guarda che bella cosa c'è in TV, o posso rompere la televisione, ma tutto questo riguarda me, non riguarda la televisione, non lo sa nessun altro tranne me. Io posso, tutte le mie reazioni, quindi io sono irresponsabile, cioè non si sa un cazzo di quello che singolarmente si sa socialmente, come media sociale, io posso fare delle inchieste per sapere quante persone hanno visto la televisione e qual è stato più o meno l'effetto, ma non è la mia reazione individuale. I cavi non veicolano le mie risposte. Ne consegue che questi ultimi, cioè i destinatari, ricevono contemporaneamente lo stesso messaggio e quindi hanno le stesse vedute, che infine non si guardano tra loro perché i cavi non consentono alcun collegamento trasversale e le immagini sono accolte come realtà, perché il tipo di collegamento non ne permette alcuna critica. Se si collegassero diversamente le immagini, per esempio nel senso di metterle in una rete di cavi reversibili, allora lo storytorio sarebbe eliminato. Ogni destinatario sarebbe responsabile perché sarebbe insieme anche emittente e perciò sarebbe a sua volta attivamente partecipe della produzione di immagini. In ogni nodo della rete le immagini verrebbero processate e perciò ogni destinatario avrebbe una veduta diversa da tutti gli altri collegati in rete con lui. Tutti gli interessati sarebbero connessi in un dialogo costante gli uni con gli altri. E il contenuto di realtà delle immagini, grazie a questo dialogo, sarebbe sottoposto a una critica costante. La commutazione dei fasci in rete e la reversibilità dei cavi si chiamano società dell'informazione telematica, come è ovvio. Commentiamo un attimo questo pezzo, perché? Perché questa è solo una parte del discorso. Evidentemente, quando Flusser scrive queste cose erano gli anni Ottanta, quindi era ancora ai suoi inizi la società della comunicazione telematica, adesso è molto più sviluppata. Da un certo punto di vista, obiettivamente, Internet rappresenta tutte quelle cose di lui, cioè rappresenta un insieme di nodi, tutti siamo collegati, tutti siamo... Ora, se io vi domando, secondo voi l'apparizione di Internet ha cambiato radicalmente la situazione che diceva Flusser 30 anni fa, voi che cosa mi ponete, sì o no? Complessivamente. Cioè, cambia il campo del gioco, ma non è cambiato il modo di giocare, tra virgolette. Cioè, si è abituati alla televisione che bravo, è univoca. Esattamente. Cioè, poca gente sa che si può replicare su internet, quindi lo utilizza come TV, però in teoria si potrebbe giocare. Allora, certo. Tendenzialmente o potenzialmente è ovvio che un insieme come internet, in cui non c'è più una gerarchia, non c'è più, in cui tutti possono essere contemporaneamente emittenti e diciamo ricevitori, altera le condizioni, ma non solo l'abitudine che noi abbiamo, perché uno dice va bene, adesso però i bambini che nascono adesso, da quest'anno in poi sarà tutto diverso, fino a un certo punto, perché internet non ha fatto scomparire dalle case le televisioni, la televisione esiste comunque e ha rafforzato, ha anche aumentato. Sì, però un po', cioè, nel senso, non è sparita la televisione, però sta cambiando. Sì, allora, un po' sta cambiando, però l'osservazione che ha fatto lui è molto, diciamo, giusta. Sì, in alcune cose, cioè per una piccola percentuale di persone, Internet rappresenta un uso radicalmente diverso. Per una grande percentuale di persone rappresenta un uso diverso solo per alcune cose e per una piccola quantità di azioni. La gran parte delle modalità di utilizzo di Internet, però, è ancora oggi di tipo televisivo, cioè la gran parte di noi consiste nel prendere video e guardare video fatti da altri. Guardi più video di prima, però è come se avessi un canale televisivo in cui hai una offerta 10 volte, 100, 1000 volte maggiore, ma quanta gente, quanti dei frequentatori di YouTube immettono loro contenuti su YouTube? Molti, pensiamo noi, ma una percentuale irrisoria rispetto al totale, meno dell'1%, lo 0,5% di coloro che si collegano con YouTube contribuisce. Tutti i social network, da Facebook, anche su Facebook, che pure per una serie di motivi che è una roba tremenda da un sacco di punti di vista, però perlomeno c'è più gente forse che parla e scrive, ma è sempre una piccola percentuale rispetto a quelli che stanno lì e guardano invece, vediamo cosa ha fatto il mio amico. E non scrivono nulla, neanche ciao, neanche vaffanculo, neanche... Quelli che invece li mettono contenuti sono quelli che sono in grado di farlo. Sì, ok, però di fatto sta di fatto che... Ma io c'è ancora il peggio, perché non è tanto che non li metto contenuti, però dice, c'è una frase che è importante, dice Flusser, Ogni destinatario sarebbe responsabile dove cazzo sta? Perché sarebbe anche emittente. In ogni nodo della rete le immagini verrebbero processate e perciò ogni destinatario avrebbe una veduta diversa da tutte le altre. Non è vero neanche questo. La stragrande maggioranza dei nodi della rete, cioè tutti noi, non mettiamo in pratica questa possibilità, non processiamo l'immagine, la lasciamo tale quale com'è. Il video musicale, il video dell'amico, la foto dell'amico, la foto del nostro amico, la lasciamo così com'è, non la prendiamo, apriamo il nostro Photoshop e facciamo i baffi alla sposa del nostro amico, dico una cazzata, una cosa qualunque, ma non processiamo l'immagine, continuiamo a fare. Perché questo? Perché la nostra abitudine è ancora prevalentemente quella in soli 20, 30 anni, 40 anni da quando c'è diciamo 50. Quindi la televisione esiste tecnicamente dagli anni 20, perché lì sono in Israele, ma diciamo si è diffusa nel mondo come sistema di comunicazione di massa nei tardi anni 40 negli USA e a partire dai primi anni 50 in tutti gli altri paesi più o meno. Quindi diciamo che sono 60 anni quando almeno. Sono bastati 60 anni, ma anche meno, perché eravamo così già 40 anni fa, quindi sono bastati 20 anni, forse 30 anni. Televisione per condizionare il nostro comportamento in questo modo, per cui è vero, l'utilizzo di delle tecnologie informatiche non è immediato come quello della televisione, ma la quantità di persone, allora vogliamo dire, in Italia oggi ci sono all'incirca 10 milioni di computer, 20 anni fa non era così, ma ci siamo rapidamente. Abbiamo una percentuale un po' minore di quella di altri paesi, ma insomma negli USA c'è una percentuale che sarà un po' superiore, ma non di tantissimo. Noi siamo più o meno in linea con il resto dell'Europa. Diciamo che di questo 10 milioni, faccio delle ipotesi, di questi 10 milioni di persone, però diciamo che 9 su 10, per una serie di motivi loro, non hanno sviluppato le competenze tecniche, eccetera, per diventare anche ad un livello minimo dei possibili processatori di informazione. Diciamo 9 su 10, quindi un milione di persone ci sarà in Italia tra i computer che sanno usare Photoshop, che sanno usare anche a livelli minimi, dico a grandi livelli, anche a livelli minimi, che sanno usare alcuni degli strumenti minimi per modificare l'informazione che gli arriva. Voi pensate che siano un milione di persone in questo momento in Italia che lo fanno? No. No. Non ci sono. Non le usano. Non ci sono 10 milioni, non c'è neanche un milione di persone in Italia. Sono alcune decine di migliaia al massimo, 100.000, 200.000 forse, 500.000 se vogliamo essere ottimisti. Cioè, quindi, nell'ipotesi più ottimista, soltanto la metà delle persone che sono realmente in grado di farlo utilizzano le proprie conoscenze. E soltanto il 10% degli utilizzatori ha davvero il minimo di conoscenza. Quindi è una situazione nella quale ci stiamo accorgendo che l'apparizione delle reti telematiche è una condizione necessaria, certo, ma non è sufficiente per il cambiamento reale della situazione, che occorre spingere più avanti questo processo, che occorre fare qualche altra cosa che io non so dirvi qual è, non voglio neanche dirvela, neanche se la sapessi, perché è bene che ognuno se la trovi per conto suo, però diciamo da questo punto di vista, io 15 anni fa, 20 anni fa ero molto più ottimista di come sono adesso, molti me lo riproverano, ma tu pensavi, ma perché effettivamente quando è nato internet, circa 20 anni fa, 15 anni fa, nella versione web, insomma nella versione nata, circa ormai più di 20, più di 30, più di 30 anni fa, quindi circa 15 anni fa, è cominciato a nascere il web, ma io era già da 10 anni che usavo l'internet che c'era allora, l'internet puramente testuale. Certo che uno è più ottimista, è ovvio, perché all'epoca uno non sapeva cosa cazzo, lo strumento è nuovo, però ha delle potenzialità come no, che sono bellissime, consentirebbe a ciascuno davvero di diventare, protagonista della storia. E quindi perché no questa percentuale? persone capaci di farlo non lo fanno. Perché complessivamente l'ambiente sociale in cui è immerso non è ancora, non ha ancora maturato. Non voglio dire che non sia possibile. Ti chiamo fra un minuto perché sto finendo lezione. Un minuto solo. Quindi vuol dire che però, come dire, bisogna tenere conto che le pressioni, come dire, conservatrici, in senso non più politico, in senso di conservare le abitudini della cultura, si sono rivelate più forti di quello che quelli tra noi, non voi che siete troppo giovani, ma quelli che hanno la mia età o anche meno, anche 40 anni, 50 anni, insomma, hanno già potuto passare. Io personalmente sono passato da una fase di grande ottimismo in cui pensavo dentro poco tempo, non è che penso che non si possa più fare, dico che sono pessimista, nel senso che ho preso atto che ci vuole un tempo più lungo, e però forse ci vogliono anche delle altre condizioni oltre che un tempo. Cioè bisogna anche che, cioè quello su cui mi faccio autocritica io, e critico di più le mie responsabilità, che non sono poi così tossiche, che non sono una persona così, sono famosa come altri, però no, per quel poco che cosa me le figlio le mie autorità. Probabilmente non abbiamo fatto tutto quello che era utile e che era necessario per far capire davvero come si potevano usare queste cose, come, in quale direzione si poteva andare. Io credevo, come dire, di averlo fatto. Evidentemente è un problema di educazione, cioè nel senso di essere cresciuti con queste cose. Ma forse è anche un problema di diffusione proprio del cavo. Da me ci sono ancora molte zone dove la DSL non c'è. Ok, d'accordo. Ci sono ritardi su wifi. La questione della banda larga è ovvio. Cioè è anche come se non arrivasse il segnale televisivo in certe zone. Sì, sì. Quelle zone sarebbero comunque. Però, allora, questo che cosa porterebbe però? Io capirei quello che dici. Bene. Allora, c'è per esempio nelle zone urbane la grande maggioranza della gente fa già così, poi nelle zone cose no. Invece non è così neanche nei posti dove c'è la DSL, però, tieni conto che la cosa che tu è sacrosanta, vera, giusta, eccetera, però anche nei luoghi in cui le condizioni tecniche di base ci sono, i nuovi comportamenti possibili con le reti non si sono diffusi nello stesso modo. Probabilmente, e lo dico tra virgolette, sempre andiamo a fare tutte le operazioni, manca forse quella coscienza di classe che verrà alle generazioni future che crescendo con internet avranno dico proprio come coscienza di far parte di una parte di, della popolazione che vive ed è cresciuta con internet. Allora diventa uno strumento talmente ovvio quotidiano che ti permette poi di lavorarci in maniera rapida. Alla fine è anche da poco che per noi è normale, sono normali queste cose. Cioè, sono diventati consuetudini in un tempo brevissimo. Molto. Però è anche da poco che è una consuetudine, cioè è da poco che si è iniziato a fare questa cosa. Cioè, nel senso, io non penso di essere vecchia, non penso di essere adulta, cioè troppo tanto adulta, un po' adulta sì. Un po' adulta, però nella mia adolescenza queste cose non c'erano. Nelle persone che sono adolescenti adesso già c'è. Ci sono. Sì. Nella mia adolescenza quindi vuol dire neanche 10 anni fa. C'è anche da dire che molti di quelli che si stanno avvicinando adesso a internet per esempio i social network tipo Facebook, quindi logico che hanno un ritardo perché loro si avvicinano al web 2.0 quando in realtà non sanno neanche, non hanno ancora usato il web 1.0 diciamo. Ma questo stanno ancora imparando anche la quantità e la quantità. Questo però è una cosa analoga. Io tenderei ad avere una interrogazione tipo la tua. Io ho cominciato a occuparmi di informatica prima del web, cioè addirittura prima delle interfacce grafiche, insomma, no? E quindi ho usato il DOS. Io ho fatto DOS tutte le volte che io poi vabbè, io anche ho una fonte scientifica, quindi io sarei anche in grado se io volessi programmare, in realtà non ho mai voluto farlo, non ce l'ho voglia. però insomma si danno un paio di linguaggi molto vecchi, e appare un Simon Belli che mi ha toccato. Se dovessi fare il C++ ci metterei un po' di più, però potrei, non lo faccio per cazzo niente, però quantomeno il DOS so più o meno come si fa, però il doppio del tempo di un programma normale. Quindi anch'io tenderei a supporre che uno, e quando sono uscite le prime interfacce grafiche, i primi GUI, i primi GUI, i graphic user, ero fuori, inorridito, perché dicevo, cazzo, nessuno più imparerà ad usare il DOS, nessuno più imparerà come si fa battendo delle stringhe di caratteri a modificare il comportamento del computer, eccetera. E quindi il computer sarà sempre di più uno strumento come quelli che usano Macintosh, che non hanno mai potuto farlo, perché il Macintosh, almeno diciamo, il PC ha, nel computer Macintosh, aveva questo vantaggio, secondo me, che era quello che era un sistema aperto, potevi, anche le opzioni di base potevi programmare tu del tuo sistema operativo, potevi farti un DOS tutto tuo, cioè scrivere, cosa che con Mac non puoi. Linux ancora di più, ma anche con MS-DOS potevi farlo. Era più stretta la tua cosa, la tua diciamo, opzione, però potevi farlo anche un po' con DOS. Nell'ambito di con Linux molto di più, è ovvio che Linux è totalmente aperto e quindi è un dubbio, diciamo così. Però in realtà bisogna tenere presente che molta di questa gente, cioè, non lo so. Le tappe si saltano, non è che si torna indietro. La gente, il DOS, non lo imparerà se non... Ma probabilmente non è neanche così necessario, perché l'importante è che adesso la gente si approccia all'internet. Cioè, il social network a questo punto è... Esatto, io li trovo deprimenti per delle cose, però li uso anch'io, so che bisogna usarli. Non sono, poi ne faccio un uso in cui cerco ovviamente di difendermi il più possibile dalle aggressioni della però so che è così, non sono molto stornato e dico mi faccio. Mi piacerebbe per esempio che però ci fossero delle sperimentazioni, sono in contatto con vari gruppi che stanno cercando di costruire dei social network alternativi, cioè basati su altri, che ovviamente saranno più di minoranza in una prima fase, saranno più di nicchia, però è importante che si sperimentino modelli diversi, perché non sia tutto solo YouTube, solo... Nel caso del video già c'è una serie, perché ci sono varie con piattaforme, diciamo, diverse, alcune delle quali sono obiettivamente più, virgolette, libere di quelle grosse come si dà per il Vimeo e dà un po' meglio di YouTube da un certo punto di vista, e ce n'è altre che sono meglio ancora, che sono ancora più aperte, che sono più. Nel campo dei social networks general purpose, Facebook ha praticamente schiacciato in breve tempo tutti gli altri ed è meno facile di vedere un'alternativa. Però io sarei favorevole addirittura a fare un web. Due anni fa discutevamo con dei gruppi di arte, con Federalista A e poi altri, addirittura di provare a fare un web 2.0 totalmente diverso, che per esempio non tracciasse gli indirizzi, quindi una piattaforma comune basata su Linux in cui l'indirizzo IP non fosse, diciamo, registrabile, fosse una cosa in cui tu potessi fare le cose in maniera totalmente anonima, totalmente. Però è una roba dura, abbiamo cominciato a farlo quelli che erano in grado tecnicamente di fare le cose, ma è un lavoro piuttosto lungo e ci vuole un sacco di tempo che lo faccia. In realtà già Firefox propongono la navigazione a tutti, che non è anonima ma cambia i controlli. Cambia i controlli, veramente, che è simile. Allora comunque, il succo è che più o meno l'impostazione di flusso, e quindi grosso modo l'avete capita. Immagini tecniche, immagini degli apparati, secondo flusso c'è la possibilità. La prossima volta parleremo di queste immagini qui, che cosa sono secondo flusso, forse siano realistico o non, e vi proporrò anche alcuni testi un testo in particolare di una persona molto più vecchia, che è Walter Benjamin, che prima addirittura della nascita di Internet, eccetera, aveva detto delle cose sulle immagini che sono interessanti. Carolina e qualche altro sta cercando di ampliare ad una nozione più generale di incontro tecnologico, però la cosa più grande è il prototipo, sta nella piccola storia dell'applicazione che è una nuova testa che stanno insieme con un'opera d'arte. Va bene, ci vediamo dove posso. Tu ti hai firmato? Sì. Allora, l'esame l'ho già fissato e mi sembra sia il 28 febbraio, se non mi ricordo male. Chi vuole può farlo anche già ora, però... Ora fanno. Dai, io parto per il stage, in Francia. Prima non posso fare. Ah, a giugno. A giugno, non c'è un'altra data, è solo un giorno solo. Se me lo dici prima...